E invece noi interrompiamo perché siamo di nuovo al telefono con la piazza. Pronto? Sì, pronto. Allora, noi sapevamo che non vi hanno fatto passare da Porta Pia, diciamo, e che l'intenzione era quella di dirigersi verso Viale del Policlinico. Cosa ci confermi? Esatto, volevo dare aggiornamento. Il corteo è partito da poco da Porta Pia e si sta dirigendo su Viale del Castro Pretorio. Poi questo soprattutto per invitare chi ancora non avesse avuto modo di raggiungerci a farlo e di venire a questo punto verso Castro Pretorio, Piazza Indipendenza. E il corteo finirà sotto la prefettura, visto insomma la chiara indicazione, diciamo, quelli che sono i mandanti dell'operazione, anzi delle operazioni, perché io ci metto anche quella di Napoli, di questa mattina, che ovviamente è il governo. E abbiamo intenzione anche di passare lungo via del Tritone, proprio per riappropriarci di quel posto che il 31 ottobre, dove il 31 ottobre la polizia si bloccò e da cui poi sono scaturiti gli arresti di questa mattina. Quindi appunto rinnovo l'invito a tutti e tutte a raggiungerci in questo momento. Adesso proprio abbiamo girato su via del Castro Pretorio, poi gireremo tra Piazza Indipendenza e Piazza della Repubblica, quindi insomma fate in tempo ancora ad arrivare. Il corteo comunque è decisamente numeroso e anche, come è ovvio, motivato. E questo è quanto, poi vi faremo sapere aggiornamenti. Va bene, tanto io insomma qua c'ho tutta una serie di numeri, quindi chiamate voi, chiamiamo noi, e chiaramente insomma noi la questione del movimento della casa di oggi lo portiamo avanti di pari passo con Napoli, perché insomma non è che siamo ciechi, ecco, vogliamo vederlo un legame, perché pensiamo che ci sia, no? E quindi sì. Credo che le lotte di oggi vadano insieme, la solidarietà, la lotta, insomma, vadano a braccetto. Ovviamente senza dimenticare che poi questa si può leggere anche come un avvertimento per il corteo previsto per sabato a Cile di Ponte Galeria, che ovviamente rinnoviamo, rilanciamo e invitiamo tutti e tutte a partecipare. Va bene, allora buon corteo, ci sentiamo tra poco, grazie. Ciao.